9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 21 maggio, la domanda che vi faccio secca per farvi riflettere e decidere come rispondere al quesito telefonando all'800240024 è: siete favorevoli o contrari a una nuova tassa patrimoniale che quindi in parole povere vi colpisca sulla proprietà immobiliare, sulle vostre dotazioni patrimoniali mobiliari, cioè se avete titoli, obbligazioni di reddito fisso, sia pubbliche che private, sul vostro conto in banca, e ovviamente oltre che un'imposta patrimoniale sulle persone fisiche, un ritorno all'imposta patrimoniale per quello che riguarda l'impresa invece che sul reddito, siete favorevoli a questo tipo di prelievo? Perché c'è chi propone, Carlo De Benedetti, è stato l'ultimo a farlo con un intervento sul Sole 24 Ore, ma sono in tanti che a sinistra pensano a questo punto, che visto che dobbiamo intraprendere una strada di correzione del debito pubblico che arriva al 118% del PIL quest'anno, tanto vale mettere mano a una patrimoniale che consenta dall'altra parte però di abbassare significativamente le aliquote troppo alte di imposta sul reddito invece che sul patrimonio, e quindi liberare risorse per la crescita, sia per il lavoro troppo tassato che per l'impresa troppo tassata nel nostro paese rispetto agli altri paesi avanzati, recuperando però il gettito che si perde in quel modo con un'imposta patrimoniale che viene definita più adeguata per redistribuire, per colpire chi ha più ricchezza rispetto ai finti effetti progressivi delle aliquote elevate sul reddito, che in realtà vengono, come dichiara la geografia e la stratigrafia della dichiarazione dei redditi italiani, totalmente aggirate, sia per quello che riguarda le persone fisiche, meno dell'1% dei 40 milioni di posizioni fiscali italiane sono oltre i 100.000 euro di reddito sulle persone fisiche, sia per quello che riguarda le persone giuridiche, cioè le aziende, perché in quel caso l'aliquota reale che grava sulle aziende, come è facilmente deducibile dal tax rate dichiarato in bilancio, vede le grandi aziende e le banche avere anche 20, 30, 35 punti di aliquota reale più bassa del 99% della piccola impresa italiana. Allora, pensate che la patrimoniale sia la strada da seguire? Che effetti avrebbe in un paese iperpatrimonializzato? Abbiamo uno stock patrimoniale delle famiglie italiane che è pari a 8 volte il PIL, quindi siamo il paese più patrimonializzato da questo punto di vista che ci sia nell'OCSE, perché abbiamo un'elevata propensione delle famiglie italiane a risparmiare, siamo sempre state cicale, lo abbiamo detto molte volte in questo anno e mezzo, è stato un punto di forza dell'Italia nella crisi e anche in questa nuova fase della crisi della sostenibilità dell'euro debito dei paesi più deboli dell'euro rispetto alla Germania. Che effetto avrebbe su imprese che hanno attivi patrimoniali, poiché abbiamo tante imprese piccole, attivi patrimoniali molto ristretti, le incentiverebbe forse ad avere più patrimonio invece che averne ancora meno, che è un forte limite alla loro capacità di investire e di crescere? Ecco alcuni interrogativi. Io prima di chiedervi di pensarci bene, di dire sì, sono favorevole alla patrimoniale, no, non sono favorevole alla patrimoniale perché non voglio dare altri soldi, perché non mi fido che intanto mi abbasserebbero quelle sui redditi, prima di presentarvi i nostri ospiti vi aggiungo solo due parole, perché questo dibattito sulla patrimoniale è un dibattito in realtà lungo e molto importante nella storia del nostro ordinamento. Vi ricordo che c'è chi sostiene che in realtà lo stesso sistema fiscale nello Stato unitario nacque con un'imposta patrimoniale che era l'imposta fondiaria, quando lo ricordò un economista, Massimo Baldini, che insegna economia all'Università di Modena, circa un anno fa sul Corriere della Sera, il professor Giulio Tremonti, ministro dell'economia, rispose con un divertito articolo in cui citava Luigi Einaudi, un grande maestro, forse il più grande maestro nella modernità, nel secolo scorso nell'Italia unitaria, di economia politica e anche di diritto tributario, che nel suo corso di Scienza delle Finanze in realtà negava che l'imposta fondiaria, un'imposta patrimoniale, fosse davvero un'imposta patrimoniale quanto invece un'imposta sul reddito che si generava attraverso le proprietà fondiarie. In realtà, nella storia recente degli ordinamenti occidentali, in tutti i paesi dell'Ocse o quasi, l'imposizione patrimoniale, che aveva avuto un grandissimo rilievo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, perché è ovvio che gli stati non avevano ancora strumentazioni adeguate per monitorare, seguire e quindi tassare i redditi, cioè i flussi finanziari di beni e servizi, e invece era ovvio che era molto più facile identificare le proprietà, a cominciare da quelle fondiarie e immobiliari. Quindi l'imposizione patrimoniale ha un ruolo fondamentale nella storia, ma nella modernità, nel secondo dopoguerra, l'imposizione patrimoniale perde sempre più colpi. Praticamente nei paesi avanzati attuali essa sopravvive con due grandi finalità: o è il pilastro fondamentale dell'imposizione locale, sono forme di council tax anche in Gran Bretagna, in Canada, negli Stati Uniti il pilastro fondamentale dei sistemi decentrati del prelievo, federali del prelievo, è un'imposta patrimoniale di solito sugli immobili. E poi esistono alcune eccezioni tra i paesi occidentali in cui invece l'imposta patrimoniale ha continuato a rappresentare un cespite fondamentale, fino a 5, 6, 7% del totale del gettito. Per esempio la Francia, che ha più imposte patrimoniali, ha un'imposta patrimoniale sulle fortune che è rimasta in piedi anche se poi non dà più ormai più di l'1% del gettito, ha un'imposta patrimoniale che assomiglia in qualche modo alla nostra IRAP, la tax professionnelle, che Sarkozy ha più volte annunciato di ridurre e poi per effetto dell'eurocrisi non ha ridotto. E poi vi sono altri paesi come per esempio la Spagna, in cui l'imposta sopra il patrimonio è basata appunto sul valore dichiarato del patrimonio individuale complessivo, le aliquote arrivano fino al 2,5%, ci sono 8 scaglioni in Spagna, anche in quel caso si è più volte parlato di sopprimerla, ma invece, al contrario, poi, di fronte ai colpi della crisi, ieri in Parlamento è stato proposto un ulteriore appesantimento dell'imposta patrimoniale a fronte del giro di vita per 15 miliardi di euro della manovra annunciata dal governo spagnolo. La cosa è delicata perché a seconda di come si fa un'imposta sul patrimonio, a seconda di come è congegnata un'imposta sul reddito, rispetto al fine apparente e dichiarato, che è quello di creare reddito o meno, questo si fa con un'imposta, con gli incentivi e i disincentivi, e di ridistribuire, a seconda di come sia l'imposta sul reddito, quanto bassa e come congegnata quella sul patrimonio, gli effetti distorsivi possono essere molto elevati. Io personalmente, e ho finito la mia introduzioncina, sono per un'aliquota bassissima di convergenza, una specie di flat tax per la parte dei redditi, ma bassissima, quando io dico bassissima dico 18, 17, 15%, per fare la progressività sui redditi esclusivamente con un'imposta sui consumi, che a quel punto fa la progressività, cioè grava su chi consuma di più, e quindi l'aliquota sul reddito diventa la parte più conveniente di adesione per i redditi, mentre invece chi consuma di più viene progressivamente colpito soprattutto dall'imposta sui consumi. Mentre io non sono per niente contrario, aprite le orecchie, a un'imposta patrimoniale, se l'imposta patrimoniale serve appunto a fare la transizione verso un modello in cui le aliquote sul reddito diventano bassissime, c'è un'imposizione sui consumi che ha invece un fine non solo di gettito ma redistributivo, e in un mondo in cui invece che il 43% io ho il 15% di aliquota sui miei redditi, allora dico la patrimoniale serve sia a incentivare l'uso del patrimonio più produttivo, perché anche a questo serve la patrimoniale, rispetto a come gli italiani la impiegano nell'immobile, nel mattone, sia dall'altra parte a finanziare la transizione, cioè gli anni in cui si attua il pieno regime e in cui c'è l'emersione del reddito se si passa a un'aliquota personale sui redditi molto bassa. Però questa è la mia personalissima ricetta. Vediamo nel confronto politico italiano e con chi sa, perché insegna, ha insegnato e studiato bene queste materie, anche se molti dicono che io devo stare zitto, io gli ascoltatori che dicono stai zitto quando faccio le introduzioni dico dico cambiate canale, ve lo dico proprio fuori dai denti, perché tanto io mi pagano per dire quello che penso, fino a che mi pagano. Allora, gli ospiti di oggi, perché poi nel seguito sto zitto, ci saranno solo oltre a loro le vostre telefonate. Noi abbiamo da una parte il senatore Enrico Morando. Buongiorno senatore. Buongiorno. Quindi stiamo parlando di PD, ovviamente membro della commissione bilancio nel Senato. Dall'altra il professor Francesco Forte, docente emerito di scienza delle finanze, editorialista regionale. Buongiorno professor Forte. Buongiorno. Morando, dunque, questa proposta è lanciata a Carlo De Benedetti, ma è una proposta che torna nelle proposte e nelle riflessioni della parte riformista del PD, ogni tanto Giuliano Amato l'aveva riproposta ancora un anno fa. Questa proposta serve a recuperare gettito o sarebbe una svolta del fondamento, nel pilastro del nostro ordinamento? A che fine e con che modalità? Ma guardi, se si ricorresse a quella soluzione bisognerebbe ridisegnare l'intero sistema, perché l'unica ragione per la quale uno potrebbe essere d'accordo con l'introduzione di una patrimoniale sarebbe quella di cui lei ha parlato prima, che adesso non riprendo, cioè ridisegnare l'intero sistema facendo di questa patrimoniale un pilastro del sistema, del nuovo sistema, aliquote sul reddito decisamente più basse. Diciamo, io ho l'impressione però che in una realtà nella quale dobbiamo avere, e questo dovrebbe essere l'oggetto della discussione nel nostro paese, un grande piano di rilancio della competitività del sistema paese, perché questo è il problema dell'Europa in questo momento, che ha troppi paesi con una competitività troppo bassa. Io penso che metterci a discutere di patrimoniale in una realtà nella quale le imprese sono poco patrimonializzate, questo diciamo è uno dei fattori di riduzione della nostra capacità competitiva, serva poco. Diciamo, io preferirei un sistema nel quale i residui di patrimoniale che interni al sistema sono quelli che riguardano l'imposizione locale. Continuo a ritenere che nel contesto dato la totale abolizione dell'ICI su tutte le prime case non sia stata una buona idea. Se bisogna conservare il patrimoniale, diciamo, la terrei su quel versante. La riorganizzazione del sistema attorno alla patrimoniale non mi convince. Penso invece che, come hanno recentemente riproposto i professori Tavellini e Trovasoli della Bocconi con un articolo sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, dal lato dei patrimoni si potrebbe agire in modo assai serio se si utilizzassero le banche dati relative ai patrimoni, incrociandole tra di loro per far emergere quei redditi che troppo facilmente sfuggono nel nostro paese al sistema fiscale. Siamo un paese di poveri che in realtà nelle statistiche, e sappiamo che non è proprio esattamente così nella realtà. Quindi devo dire francamente non mi convince moltissimo questo approccio che vorrebbe fare della patrimoniale insomma uno dei pilastri fondamentali di un nuovo sistema. Perché in teoria Carlo De Benedetti dice facciamolo adesso perché serve ad abbassare molto le aliquote e quindi a fare esattamente la crescita aggiuntiva di cui il senatore Morando anche lei dice oggi c'è fame più che mai. Beh, vede, io per esempio penso che in termini di efficacia a questo fine sarebbe infinitamente più efficace un intervento per la riduzione drastica delle aliquote sul reddito da lavoro delle donne. Io sono convinto che in questo paese se c'è una risorsa inutilizzata per lo sviluppo è quella rappresentata dalla voglia di fare, di lavorare, di impegnarsi, dall'intelligenza di donne che non partecipano nemmeno più alle forze di lavoro perché sono talmente deluse circa la possibilità di trovare un lavoro che stanno fuori dal mercato oppure sono nel mercato del lavoro nero. Penso che questa energia potrebbe essere usata e per spingere le donne, spingere nelle famiglie ad un dibattito sopra l'utilità del lavoro fuori casa delle donne, sarebbe assai intelligente avere a parità di reddito tra un maschio e una femmina una aliquota molto più bassa sulle donne. Secondo me, se vogliamo fare cose pro crescita, questa è una misura decisamente migliore della riorganizzazione. Ne abbiamo parlato perché questa è la tesi anche del recente libro di Alesina e altri, e al di là del problema costituzionale, io ricordo sempre, noi siamo attualmente 17 punti sotto tutto l'occupazione femminile tedesca, 17 punti. Questo ci dà l'idea che quello è il segmento in cui concentrare il più per la produttività e la competitività, per quello che riguarda la componente lavoro ovviamente, perché 17 punti sono l'ordine di Dio. Ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, se l'altro Morando in questo ha ragione, i paesi europei ci dimostrano che il tasso di natalità è maggiore nei paesi in cui le donne vengono poste in condizione di partecipare di più al mercato del lavoro. Non è vero il mito maschilista italiano che i figli meno nascono dal fatto che vogliamo far lavorare le donne, è vero l'esatto opposto. Senatore, professor Forte, mi scusi, senatore Morando ha dei dubbi dal punto di vista di un'impostazione liberale, Einaudi, l'abbiamo ricordato all'inizio, eccetera, e della storia dell'ordinamento italiano. Questo passaggio alla patrimoniale per avere meno imposte sul reddito, lei crede che avrebbe l'effetto che dice Carlo De Benedetti? No, intanto io credo che, come dice Morando, se c'è una larga evasione nell'imposta personale sul reddito, che in parte deriva dall'eccesso di aliquota marginale, mettere un'imposta patrimoniale significa colpire sempre le stesse persone, perché poiché il reddito è, diciamo, il reddito da patrimonio e il patrimonio sono due interfacce dello stesso fenomeno, l'unico patrimonio che non dà reddito sarebbero i terreni incolti o le aree fabbricabili, e quindi non riesco a capire che tipo di soluzione potrebbe essere questa. Poi in qualsiasi libro sensato di scienza delle finanze si dice che l'imposta patrimoniale è uno strumento di progressività delle imposte. Già c'era un saggio del Gini di 100 anni fa, direi 60 anni fa, 70, in cui si dimostrava statisticamente che un'imposta sul patrimonio è equivalente a un'imposta personale progressiva sul reddito, in quanto c'è una quota crescente di redditi, di patrimonio, quando i redditi aumentano. Quindi l'imposta sul patrimonio altro non è che un'imposta progressiva sul reddito. D'altra parte l'unica imposta sul patrimonio, diciamo seria, è quella che si paga col reddito del patrimonio, perché diversamente si consumerebbe il patrimonio e quindi deve essere necessariamente moderata. Se poi lo mettiamo sulle imprese, l'imposta sul patrimonio discrimina, diciamo, il patrimonio proprio rispetto all'altro, salvo nel caso che la si metta anche sui debiti delle imprese, ma diciamo che in questo caso sarebbe il patrimonio di terzi. Aspetti che la interrompo perché andiamo in pubblicità. A chi ci ascolta ricordo solo, personalmente per me il testo di formazione, per così dire, quello che rappresentò la fine della lunga parabola di un grandissimo di scienza delle finanze italiane, sto parlando di Cesare Cosciani, un libro che lo trovate ancora, di Franco Angeli, è dell'84, il libro rappresentava la punta finale di questo grande maestro, della sua intera vita dedicata allo studio e anche alla modifica, all'adeguamento, alla riforma del sistema fiscale italiano. Si intitola La crisi dell'imposizione personale progressiva sul reddito in Italia, e c'erano alcune molto ficcanti osservazioni sui limiti di un ritorno alla tassazione patrimoniale, perché diceva Cosciani in realtà la tassazione patrimoniale indurrebbe oggi nella realtà, nella modernità, incentiverebbe a un utilizzo dei patrimoni verso gli impieghi più speculativi, ovviamente, cioè quelli che ne accrescerebbero la redditività nominale, a rischio poi di avere degli effetti anche sulla stabilità dei redditi reali e del patrimonio, come vediamo con le bolle immobiliari. Eccoci tornati in studio dopo la proposta, che il rilancio della proposta di Giuliano Amato fatto da Carlo De Benedetti, patrimoniale per abbassare le aliquote sui redditi delle persone fisiche, sul lavoro e sulle imprese, e quindi rilanciare la crescita. Abbiamo tentato di spiegare qual è stato il ruolo della patrimoniale nella storia degli ordinamenti, in quali paesi sopravvive, qual è la sua diversa funzione, quali sono anche i suoi rischi. Ce lo hanno spiegato il senatore Enrico Morando del PD, il professor Francesco Forte, che restano con noi perché poi rispondano alle vostre domande con i vostri interventi. Adesso apriamo i microfoni agli ascoltatori, cominciamo con Mimmo da Roma. Come la pensa sulla patrimoniale? Disponibile, favorevole oppure dubbioso? Mimmo, prego. Buongiorno, allora, molto sinteticamente io sono favorevole a una patrimoniale, a un'ipotesi patrimoniale in qualche modo giustificata dalla straordinarietà della situazione, cioè un'imposta patrimoniale che ci consenta con un prelievo ovviamente selettivo, perché non si può neanche, diciamo, in qualche modo colpire anche quelli che con tantissimi sacrifici hanno fatto, hanno raggiunto magari si sono, quindi lei vorrebbe una soglia di esenzione come ammontare per le famiglie, in maniera tale che quelli che hanno solo un po' non vengano toccati. Esatto, farei quindi quello e la immaginerei un'imposta che ovviamente di transizione, come avete detto voi, per innanzitutto per contenere, diminuire il debito pubblico e ovviamente dare la possibilità per quel ridisegno complessivo delle aliquote che dovrebbero in qualche modo vedere una maggiore, un allargamento della base imponibile, una diminuzione delle aliquote, soprattutto quelle del lavoro dipendente che sono, hanno raggiunto i livelli, diciamo, di difficile sopportabilità, e questo in qualche modo ci dovrebbe aiutare a superare magari un momento come questo di grandissima crisi. D'accordo, Mimmo, lei la vede come uno strumento aggiuntivo per reperire gettito e un pochino e abbassare anche le aliquote. Quindi in buona sostanza la risposta di Mimmo è un sì a Carlo Benedetti, Giuliano Amati ed altri. Poi Dino dalla provincia di Chieti, lei come la pensa invece? Allo scopo di diciamo di combattere l'evasione fiscale innanzitutto, io suggerirei di unire alla dichiarazione dei redditi anche quello che è l'anagrafe personale o di società dei beni mobili e immobili. Per i mobili chiaramente intendo valori superiori, ad esempio, ai 50.000 o 100.000 euro. Questo comporterebbe chiaramente a un incremento di patrimonio anche una dichiarazione. Si sente male Dino, si sente un po' male col telefonino. Comunque ho capito, piena nominatività dei titoli, compresi quelli azionari, e una anagrafe, un obbligo di dichiarazione patrimoniale oltre che dei redditi. Carlo De Benedetti citava anche ovviamente i conti bancari. Ricordo a tutti quando si fece il prelievo straordinario governo Amato sui conti bancari, con un'aliquota per quanto bassa, ci fu naturalmente chi veniva colpito per il semplice fatto che in previsione di acquisti immobiliari aveva immobilizzato sul conto cifre molto elevate, sembrava ricchissimo, poi in realtà era tutto quello che aveva. Quindi su queste cose bisogna tenere conto anche della tradizionale renitenza degli italiani a fare questa full disclosure. Gli italiani hanno, diciamo, una maniera familiare di condurre il proprio vicenda contabile nei confronti della propria moglie, dei propri figli, nei confronti del patrimonio e dei conti economici delle imprese familiari, che di solito è improntata a un forte atteggiamento di contrarietà alla full disclosure patrimoniale e del proprio conto economico. Però certo non si fa una cosa ben fatta senza un'anagrafe ben fatta e senza l'obbligo di dichiarazioni anche per parte patrimoniale, altrimenti la patrimoniale si fa semplicemente sulla base del catasto italiano, che è quello che è. Carlo da Modena, come la pensa lei? Ma io sono risolutamente contrario, perché la patrimoniale colpisce il risparmio privato e la patrimonializzazione delle imprese, ed è indirettamente molto diseducativa, perché va a premiare gli stati spendaccioni, i privati che spendono soldi, che consumano con soldi che non hanno, e le imprese che non patrimonializzano. Quindi questo è il grande rischio, in effetti, questo è il grande rischio, c'è poco da fare, è il motivo per il quale molti grandi studiosi liberali, di fronte a un'impostazione nella quale la parte patrimoniale aveva un senso, faccio nomi come Stuart Mill e così via, per la parte successoria, per livellare la dotazione iniziale di patrimonio a prescindere dalle fortune accumulate, però per il resto dicevano nella modernità una tassazione patrimoniale forte ha proprio gli effetti negativi che dice lei. Giuseppe dalla provincia di Prato, come la pensa lei invece? Buongiorno, io sono contrario per il semplice fatto che una ennesima ricerca di nuova materia imponibile significa dichiarare il fallimento di una politica fiscale sana, forte, energica, non solo, ma praticamente ritengo che l'ingegnere De Benedetti pessimisticamente abbia valutato che non c'è modo di fare lotta all'evasione, non c'è modo di ridurre la spesa dello Stato, creiamo nuova materia imponibile. Questa veramente è una dichiarazione di fallimento, bisogna inasprire all'americana le norme sulla evasione fiscale e bisogna ridurre assolutamente la spesa pubblica, meno generali, meno dirigenti, più soldati e più gente che lavora. Grazie a Giuseppe dalla provincia di Prato. Sentiamo ancora Mario dalla provincia di Genova. Mario, la sua opinione. Buongiorno Oscar, senta, io sono invece molto d'accordo sull'imposta patrimoniale a due condizioni: che non si toccano quelle delle imprese, perché le imprese devono produrre e semmai incentivarle a innovarsi, e invece su quella individuale, a condizione che sia però progressiva, nel senso che partendo da scaglioni 20 e poi progressiva verso l'alto, perché penso un pochettino che io la farei addirittura ciclica ogni, non so, 10-20 anni, perché estenderebbe a un riequilibrio della giustizia sociale, e tanta gente si ritrova dei patrimoni immensi per famiglia che non ha contribuito a produrre, e che quindi è giusto che ogni tanto si colpiscano in maniera progressiva, ovviamente, questi patrimoni. Quindi mi sembra una cosa logica, che non vedo, non sono d'accordo con il professor Forte che dice che si colpisce il reddito in questa maniera, perché c'è certa gente che magari ha un lavoro, mettiamo da medico eccetera, che si ritrova dei patrimoni che invece sono stati costruiti dalla famiglia che lui ha avuto, e che quindi cosa c'entra con il reddito, capisce? No, ho capito, adesso diamo la parola al professor Forte per rispondere. Ancora Daniele da Milano. Buongiorno. Dica pure. Niente, io non me ne intendo tanto di economia, però mi sembra che praticamente lo Stato giustamente cerca di, da un lato, di privatizzare tutto per non far sì che le persone non dipendano dallo Stato, però dall'altra parte mi sembra che lo Stato va un po' a cercare di dipendere dalle ricchezze della popolazione in genere. Non crea una ricchezza indipendente, diciamo, autonoma. Facendo così mi sembra un po' una cosa non buona, diciamo. E qui, insomma, mi pare di capire che lei ha un pochino di dubbi e forse di perplessità che dipendono forse dal fatto anche che non ha capito molto bene, perché lo Stato, una ricchezza autonoma rispetto a quella dei suoi cittadini, quale potrebbe mai essere? Ma comunque, detto questo, mi pare che lei sia più perplesso che favorevole. Fino a questo momento, devo dire la verità, io mi aspettavo forse qualche eco più favorevole da parte dei nostri ascoltatori. Sarà che anche il pubblico di Radio 24 è un po' prevenuto. Domanda al senatore Morando. In realtà, dal punto di vista della serietà dell'atteggiamento degli interlocutori politici da parte del governo e nell'opposizione, lei pensa che in questa curva temporale terribile in cui ci troviamo, con questa Europa che balla molto, poco unita, tedeschi che continuano un giorno sì un giorno no a prendere un'iniziativa unilaterale, mercati che scendono, dubbi sull'euro, la realtà spinge a credere che l'Italia avrà un sussulto di serietà, per cui faccio questo esempio sulla riforma del sistema fiscale per crescere di più, o comunque su provvedimenti di convergenza per crescere di più e non andare noi sotto il fuoco dei mercati? C'è speranza dal suo punto di vista? Che probabilità c'è che avvengano, oppure invece siamo ai soliti tornei di parole? Come la vede lei, senatore? No, io spero che non sia un torneo di parole. Penso che noi, io mi preoccupo sempre che noi che siamo all'opposizione si faccia bene il nostro mestiere, spero che poi il governo possa favorire un'interlocuzione con noi positiva, ma io credo che siamo di fronte ad un passaggio cruciale. Qui si sta disegnando, nelle prossime settimane si disegnerà la Costituzione materiale europea dei prossimi anni. Quindi io sono perché si prendano le cose sul serio, è evidente a che cosa siamo di fronte, la speculazione malvagia c'è, ma non è il problema fondamentale. Grazie per dirlo, senatore. Ecco, il problema fondamentale è che ci sono squilibri macroeconomici drammatici all'interno di un'area che usa la stessa moneta, e o si affrontano questi squilibri e lo si deve fare sia dal lato di chi è troppo forte, tra virgolette, ha un mercato interno troppo piccolo, la Germania, sia da chi ha problemi di competitività, di bilancia commerciale, di bilancio dei pagamenti drammatici, che sono i paesi mediterranei in particolare. Allora, qui c'è bisogno di un piano triennale di rilancio della nostra competitività e ci vogliono le riforme strutturali. Ragiono così per l'essenziale, delle riforme strutturali fa parte anche un intervento sul fisco. Ho prima fatto un esempio a proposito di imposizione sui redditi da lavoro delle donne, e io considero una misura di carattere strutturale. Se volessimo davvero fare un salto sotto il profilo della nostra capacità competitiva, io penso che dovremmo privilegiare quell'intervento rispetto agli altri. Sbaglierò, ma infilarci adesso nella discussione sull'introduzione della patrimoniale significa pretendere di cambiare immediatamente tutto il sistema. La Francia è l'unico paese che ha una imposta patrimoniale come uno dei capisaldi di un sistema fiscale nazionale, e non è un caso che ce l'abbia la Francia, perché la Francia ha sui redditi invece usa il quoziente familiare. Esatto. Allora, se si usa il quoziente familiare, naturalmente ci vuole la patrimoniale, ma noi nel nostro paese non abbiamo un sistema fiscale di prelievo sui redditi fondato sul quoziente familiare. Ho l'impressione che di conseguenza sarebbe meglio privilegiare un dibattito su alcuni nodi essenziali. Quello della tassazione dei redditi delle donne è il primo. La mia opinione è che se si vuole smettere di fare comizi contro la speculazione cattiva, i grandi manager eccetera, e fare delle cose concrete, per esempio si potrebbe istituire, ho avanzato una proposta di legge in questo senso, che naturalmente non ha avuto l'onore delle cronache, perché le cronache italiane in questi mesi... Ma noi siamo qua, quindi, su cosa? Introduciamo un'imposta straordinaria sulle dimensioni quando sono eccessive, quando superano 10 per esempio, della leva finanziaria degli istituti di credito, in maniera tale da indurre gli istituti di credito a leve finanziarie più contenute, e quindi a rischiare di meno rispetto per unità di capitale intermediate i soldi dei depositanti. La interrompo perché ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi anche al professor Forte la domanda rispetto all'enorme crisi dell'euro che è aperta come curva di lungo periodo di fronte a noi, cosa fiscalmente per crescere di più l'Italia può e deve permettersi in questa fase, con un rapporto se possibile di dialogo tra le persone ragionevoli del governo e della maggioranza, ma dell'opposizione anche dall'altra. Senatore Morando, a me sembra una persona ragionevolissima, non è il solo. Eccoci tornati in studio. Allora, professor Forte, lei che dice rispetto alla danza sui mercati a un euro che diventa un enorme punto interrogativo ancora per il futuro di fronte alla mancanza di un motore di crescita comune, l'Italia rispetto ai fondamenti attuali del suo sistema fiscale, da dove reperisce il gettito, cosa realisticamente può e deve fare per crescere di più, avere più spazio per una tassazione meno pesante, quindi sul lavoro e sull'impresa? A queste forme deve di nuova imposizione deve ricorrere, oppure c'è un margine su come funziona oggi l'ordinamento per avere comunque questo effetto? Lei che dice? Intanto dico che finora non ho sentito un numero su questa imposta patrimoniale, quindi vorrei dire ai miei colleghi di cercare di quantificare, perché fino ad ora nessuno ha quantificato nulla. In secondo luogo, in periodi di crisi abbiamo un'imposta personale sul reddito discutibile con evasioni eccetera, che però dà il 13% di gettito del PIL, e quindi sarà bene non fare drastiche modifiche di questo tributo fino a quando le cose non sono sistemate. Questo per la prudenza necessaria dal punto di vista fiscale. Del realismo, certo. Ecco, dal punto di vista del funzionamento, in termini econometrici, risulta che noi, anche se non facessimo nulla, ma il governo pensa di fare una modesta manovra correttiva, dico modesta perché è lo 0,8% del PIL sull'anno prossimo e lo 0,8 sull'anno successivo, che diventerà in realtà lo 0,5 perché c'è un gettito maggiore del previsto dovuto alla maggiore inflazione e un PIL maggiore dovuto alla maggiore inflazione. Ecco, a causa di questi fenomeni, ma anche se non ci fosse la manovra correttiva, l'Italia è uno dei pochi paesi che avrebbe automaticamente un avanzo primario, sia pure piccolo, fra 2 anni. Con questa manovra il nostro avanzo primario potrà, se si continua a tenere il sistema in sicurezza, far decrescere il rapporto debito-PIL, anche senza fare niente di particolare. E quindi la cosa più importante è quella di cercare di adeguare il sistema tributario alla produttività e di agire nell'economia affamando la bestia, come si dice, nel settore della spesa pubblica, e dimagrendo lo Stato con le privatizzazioni, con le liberalizzazioni e soprattutto liberalizzando maggiormente il mercato del lavoro, creando un sistema di appalti più flessibili, proteggendo il risparmio e non tassandolo in modo da rassicurare le famiglie, diciamo facendo un vero catasto e una valutazione seria degli immobili, applicando l'esonero della prima casa solo alle prime vere case, non alle seconde, aumentando l'età pensionabile delle donne, che fa crescere automaticamente del 15% il contributo della forza lavoro al femminile, al PIL e all'occupazione, e fa risparmiare un 1,5% di PIL, attuando una nuova più seria riforma delle pensioni, mettendo in sicurezza il sistema sanitario, rilanciando le infrastrutture, in particolare per il Mezzogiorno, che con contratti liberi, infrastrutture efficienti, poi deve fare da sé. Il professor Forte qui ci dice realismo rispetto a ciò che dà oggi il più del gettito e liberalizzazioni. Pensate che Banca d'Italia dice che con piene liberalizzazioni per i molti segmenti, il 70% dell'economia italiana, servizi, non esposto ancora al mercato, professioni, commercio, eccetera, eccetera, ci sarebbero 11 punti di PIL di crescita aggiuntiva, dice la Banca d'Italia, che si potrebbero realizzare, e questa strada è stata poco battuta in questi anni, anche da questo governo. Si torna a chiedere tariffe minime professionali, pensate alla riforma della professione forense, ne abbiamo parlato in Parlamento, quindi questo unisce, secondo me, persone molto ragionevoli come senatore Morando e altri nel dire questa strada è sbagliata, bisogna liberalizzare di più, però grande prudenza, come avete visto, prevale tra gli addetti ai lavori sulla patrimoniale. Sentiamo ancora alcuni ascoltatori, quindi voi come la pensano? Daniele da Grosseto, per esempio, rapido, prego Daniele. Buongiorno, senti, io sono un medico ospedaliero in pensione, sono riuscito a fare la casa con il mutuo, va bene, con due figli e così via, per cui non è che noto nell'oro. Certo. Tra le altre cose volevo fare una premessa, sono un medico, per cui facendo ora un po' di libera professione tutti quanti possono chiedermi la ricevuta senza nessun aggravio. Ora, bene, lo Stato, e lei è uno dei pochi felici di darla, per così dire. Sì, allora ascolti, perché lo Stato mi deve imporre un 20% di IVA quando viene da me un artigiano o chiedo a un'industria di farmi una qualsiasi manufatto in casa? E la tentazione di non chiederlo, di chiedere di meno, è alta, no? E come no? Allora, il problema è questo qui. Perché intanto a me me la possono chiedere e io devo dire, ma vediamo un po' quanto è, Madonna mi faccia meno e così via, se possibile. Giusto? Certo. Io credo che questa sia, ci sia un'evasione esagerata su questo. Allora, lei sostiene, attenzione, invece di parlare di patrimoniale, pensiamo che il più dell'evasione è sull'IVA. Io ieri ho pubblicato un articolo su alcuni quotidiani facendo un po' di conti, che sono quelli del professor Ugo Arrigo, a dire la verità, si arriva fino a 40-50 miliardi di evasione IVA l'anno nel nostro paese, concentrata soprattutto in 5 regioni dove l'evasione dell'IVA arriva fino a superare il 70%. Stiamo parlando di regioni meridionali, tanto per essere chiari, ma comunque l'evasione dell'IVA in Italia è veramente la componente, a mia modesta opinione, prevalente sul totale dei 100 miliardi che si stimano spannometricamente evasi, ma quella prevalente effettivamente è quella sul consumi, e quindi bisognerebbe pensarci, per chi come me pensa che bisogna fare un'imposizione sui consumi per fare la parte progressiva della tassazione. Marco da Monza, come la pensa Marco? Franco? Marco, mi hanno detto. Sì. Ma se è Franco, sì, chiedo scusa. Sì, buongiorno Giannino, complimenti. Prego. Dunque, la domanda sintetica è questa: come mai in questo benedetto paese non si riesce a introdurre un sistema fiscale come in America, dove chi va dal dentista, chi va dall'idraulico, chi va da un'impresa edile, eccetera, non può scalare per intero tutta la fattura da reddito? Marco o Franco, non mi faccia questa cosa sul contrasto generalizzato di interessi, perché lo spiego da anni, anche a persone molto per bene come Bruno Tabacci, che ne hanno fatto il suo cavallo di battaglia, sapendo che questa roba che vi ficcano in testa è impropria e sbagliata, capisce? Cioè, lo Stato dà deduzioni e detrazioni, ma lo Stato, qualunque ordinamento può dare deduzioni e detrazioni quando le spese servono o a creare valore aggiunto, capisce? A lei che le sostiene, no? I lavori in casa, in questo caso, a lei non creano valore aggiunto, lo fanno creare a chi le realizza. capisce? Uno. Questa è una cosa teorica, posso capire, ma è fondamentale per capirla. Seconda cosa, possono dare riduzione della detrazione per spese per incentivare comportamenti di formazione del capitale umano dei vostri figli, eccetera, eccetera, eccetera, che non hanno a che vedere con il contrasto generalizzato degli interessi. Questa roba o la capite, oppure credete che c'è un complotto dello Stato per non far fare le fatture ai professionisti. Ed è sbagliato non capire questa roba qua. A Mirko da Torino chiedo scusa perché il tempo si è esaurito, io intanto mi appassiono nel dare risposte tecniche, grazie al senatore Enrico Morando, grazie al professor Francesco Forte, mi pare di capire che oggi non abbiamo fatto fare grandi passi in avanti alla proposta di Carlo De Benedetti, che come vedete interviene su una materia complessa, in un momento molto delicato per il gettito italiano, di sicuro però bisogna dare più spazio alla competitività e meno pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa insieme, senza mettere a rischio i nostri conti. Questa è la sfida, grazie regia Filippo Aureggi, grazie in redazione Alessandro Marco Tulli, ora linea al Giornale Radio e l'appuntamento è, essendo oggi venerdì, direi a lunedì.